A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Quello che scriveva nel suo tema di maturità, Rita Atria aveva provato a metterlo in pratica nella sua vita e nella sua famiglia, con la forza dei suoi 17 anni e il coraggio di una ribellione. L'aveva sognato un mondo migliore, questa ragazza siciliana, un mondo dove non ti ammazzano più il padre e il fratello, come era successo a lei, dove non c'è chi controlla ogni tuo movimento o pensiero, dove la luce è libera di entrare ogni giorno dalle finestre aperte e non è lasciata fuori da imposte chiuse per non farsi vedere. La sua personale rivoluzione Rita l'aveva cominciata il giorno in cui al silenzio aveva contrapposto le parole e aveva iniziato a raccontare tutto quello che sapeva sulla sua famiglia, sugli affari e sulle amicizie pericolose degli uomini di casa, del padre morto ammazzato e del fratello ucciso davanti agli occhi della moglie Piera Aiello, che prima di lei si era avviata lungo la strada faticosa della testimonianza. Quando però venne a mancare anche colui che a lei aveva spianato questi nuovi orizzonti, ucciso dal tritolo di Via D'Amelio, Rita si spezzò. «Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta», scrisse nel suo diario prima di aprire una finestra e lanciarsi nel vuoto in quella terribile estate del 1992. E allora, in questi giorni particolari, in queste puntate un po' diverse di A ciascuno il suo, partiamo dalla sua storia, dalla storia di Rita Atria, perché è una storia di speranza, perché è una storia di parole coraggiose come tutte quelle pronunciate dai testimoni di giustizia, che sono la principale mentita ad una delle regole mafiose. A me giù parola e chidda che non si dice. La miglior parola è quella che non si dice, come sentenziò il più sanguinario dei boss, Totò Riina. E contro il silenzio mafioso dunque anche Più libri, più liberi, titolo dell'ultima fiera della piccola e media editoria a Roma. E di parole e silenzio abbiamo parlato durante la fiera in un dibattito con il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia e con Petra Reschi, giornalista tedesca del Die Zeit, autrice tra l'altro proprio di Rita Atria, la picciridda dell'antimafia, ripubblicato da Nuovi Mondi. Io malgrado devo dire che è una storia tuttora attuale, perché mi augurerei piuttosto che non fosse più attuale, perché questa storia di una testimone di giustizia, una ragazza di 16 anni che era tra i primi, che all'epoca non si chiamavano neanche così testimoni di giustizia, ma tutti venivano chiamati collaboratori di giustizia. Allora, una ragazza di 16 anni che si decide a collaborare con la giustizia, a raccontare tutto ciò che lei sa sulla mafia nel suo paese, era una cosa molto molto singolare all'epoca, e io mi sarei augurata che oggigiorno potremmo considerare la storia di Rita Atria come una storia storica, anche non ha più rilevanza per oggi. Però devo dire, se considero la situazione dei testimoni di giustizia che tuttora non ricevono abbastanza tutela, di cui il contributo che loro fanno, diciamo, per la società italiana in generale non viene apprezzato adeguatamente. Dunque, per questo devo dire, a mio malgrado, purtroppo questa storia di vita è ancora attuale. Sono tanti aspetti che ci riportano in un territorio, quello appunto di Partanna, di cui parleremo, che è un territorio anche estremamente ancora attuale per la cronaca giudiziaria siciliana, proprio perché è il fortino anche dell'ultimo grande boss latitante, che è Matteo Messina Denaro. Però la storia di Rita Atria è attuale, come ricordavi, anche perché è profondamente intrecciata con la battaglia che i testimoni di giustizia portano avanti per avere un aiuto ulteriore da parte dello Stato, proprio perché loro rimettono in gioco completamente la loro vita, la loro esistenza, la loro identità, e spesso lamentano di non avere adeguate risposte e sostegni da parte dello Stato. E da questo punto di vista la storia di Rita Atria è intrecciata moltissimo con la storia della cognata Piera Aiello, che è anche lei una testimone di giustizia. Tu hai conosciuto conosciuto Piera? Sì, ho conosciuto Piera all'epoca di questi fatti, ma per chi non è al corrente della storia di Rita e di Piera, dunque Rita Asre è una ragazza di una famiglia mafiosa cresciuta a Partanna nel feudo oggigiorno di Messina Denaro, e all'epoca era una mafia rurale. Lei è cresciuta, Rita Asre era cresciuta dentro una famiglia mafiosa, il padre era un piccolo boss, il fratello era anche coinvolto con la mafia, tutti e due sono stati uccisi dalla mafia. Dunque Rita, 16 anni, era rimasta l'unica in famiglia, voleva vendicare soprattutto la morte e l'assassinio del fratello e del padre, dunque questo era il primo movente. E poi il sostegno della parte della cognata Piera Aiello era molto importante per Rita, perché Piera Aiello, a differenza di Rita, non era cresciuta in una famiglia mafiosa, ma in una famiglia normale, dunque aveva una ottica completamente diversa sui fatti di mafia. Dunque era Piera per prima che ha fatto questo grande passo di decidere, dopo l'assassinio di suo marito, di collaborare con la giustizia. Dopo Rita è stata, alla differenza anche di Piera, che è stata sostenuta dalla sua famiglia, Rita è stata ripudiata, rinnegata dalla mamma, e questo è stato per una ragazza di 16 anni molto grave. Dunque lei e tutte e due donne, le ragazze più che altro all'epoca, vivevano a Roma sotto falso nome, come tanti testimoni di giustizia. Rita e Piera erano molto legati a Paolo Borsellino. Dopo l'assassinio di Paolo Borsellino, Rita ha completamente perso la speranza in un futuro, soprattutto perché non aveva nessuna radice, nessuna famiglia che la sosteneva. Neanche un mese dopo l'assassinio di Paolo Borsellino lei si è suicidata. Abbiamo incontrato e intervistato e raccontato anche noi la storia di Piera Aiello, gli ascoltatori di Radio 24 l'hanno sentita anche dalle sue stesse parole, e le storie di queste due donne sono i volti anche diversi di come si può venire fuori da un ambiente mafioso, perché appunto la loro risposta è stata quella di affidare parole coraggiose a quello che era in quel momento il giudice che più si stava occupando di quella mafia, che era appunto Paolo Borsellino. Ma la storia di Rita Atria è anche una storia triste per quello che successe dopo la sua morte, perché appunto quella mamma che l'aveva rinnegata, come hai ricordato, andò a scalpellare, andò a distruggere, andò a colpire la lapide anche che copriva la tomba della figlia, la tomba di Rita Atria. E questo è un gesto di violenza che io trovo emblematico di quel mondo mafioso che tuttora sopravvive abbastanza, diciamo così, chiuso in se stesso, in questa zona che è appunto il fortino di Matteo Messina Denaro. Che zona è Partanna? Che vuol dire vivere e cercare di acquisire informazioni in questo paese? Quando tu sei andata lì, che ambiente hai trovato? Quando sono andata, diciamo, Partanna sicuramente era ancora un po' più chiusa che lo è tuttora oggi, perché sempre, diciamo, il fondamento della mafia in Sicilia, quella zona vicino a Trapani, questo feudo di Messina Denaro. All'epoca, quando sono andata io, mi ricordo in particolar modo anche il rifiuto della parte dei partanesi, purtroppo, di parlare anche su Rita Atria, perché più che altro si sentivano puttanato in qualche maniera dai racconti di questa ragazza. Questo l'ho trovato molto scioccante. La madre che ho incontrato, ho parlato con lei, e avrei voluto speravo per Rita anche in qualche maniera che la mamma si pentisse un po' del suo gesto violento contro sua figlia, proprio non solo nel senso fisico ma anche nel senso psicologico, perché se lei avesse avuto il sostegno della madre di sicuro non si sarebbe tolta la vita. Dunque era un paese molto molto chiuso, e mi ricordo come quando sono tornata dopo settimane a girare a Partanna, quando sono tornata a Palermo mi sembrava di tornare nella città della luce, perché Patana era un paese veramente molto chiuso, ancora oggi considero grande questo gesto che hanno fatto Piera e Rita di uscire di questo silenzio. Bisogna tener conto anche che l'epoca in cui loro hanno fatto questo passo c'erano i primi pentiti, dunque era tutto un mondo nuovo anche, non c'era un movimento di antimafia, conta ancora di più, erano molto più isolate ed erano due donne giovani. Ecco, questo è un passaggio importante perché appunto la mafia, soprattutto la mafia siciliana, Cosa Nostra, è stata un po' consegnata all'immaginario collettivo come un'associazione malavitosa esclusivamente maschile. Se questo è in gran parte vero, ci sono state e ci sono delle donne che hanno avuto dei ruoli anche decisivi, importanti nella gestione o nel ruolo di tramite per la gestione appunto dell'organizzazione mafiosa, ma forse sono più note le donne malavitose che non le donne che hanno compiuto un gesto ancor più coraggioso, che è stato quello di denunciare quello stesso ambiente malavitoso di cui avevano fatto parte. È qualcosa che per esempio è successo anche più di recente con un'altra collaboratrice di giustizia calabrese, anche se poi ha ritrattato, che è Giuseppina Pesce, che nel momento in cui ha cominciato a collaborare ha detto che lo voleva fare perché voleva evitare che i figli facessero la sua stessa vita, vivessero nel suo stesso ambiente. Quello che io a te vorrei chiedere è proprio questo, cioè è più facile raccontare la storia della donna boss piuttosto che la donna che diventa testimone di giustizia? Sì, sicuramente, perché nell'immaginario è sempre l'importanza del folklore mafioso. I prodotti della folklore mafiosa vengono consumati molto più volentieri che la realtà. La mafia sono sempre metà uomini, metà donne. È stato più che altro questo un prodotto della propaganda mafiosa di pensare che le donne non abbiano avuto ruoli decisivi, perché anche la mafia voleva proteggere le donne, ma non per proteggere le donne in sé, ma per proteggere la mafia, perché finché le donne venivano considerate innocenti anche dalla parte dei giudici, loro potevano assumere dei ruoli molto più importanti, cioè gestire affari eccetera, dunque certo, Non sono mai state innocenti. A ciascuno il suo. La prima cosa che le ha fatto, che è una grandissima cosa, è accettare lo status del padre e del fratello, che erano dei mafiosi. Una volta che l'ha accettato e ha capito l'importanza della testimonianza, perché io sinceramente non l'ho fatto per vendetta, in 10 anni ho vissuto in malo modo, prendendo pure tante botte da mio marito perché mi ribellavo. Lei ha accettato la condizione del padre e del fratello e come diceva zio Paolo Borsellino, ha sentito il fresco profumo della libertà. Ha la determinazione di una combattente e lo sguardo fiero Piera Aiello, come la sua voce, qui modificata per ragioni di sicurezza. Quella stessa determinazione che prima portò lei, come sua cognata Rita Atria, a denunciare la mafia che avevano dentro casa e che ancora muove Piera Aiello nella sua battaglia a favore dei testimoni di giustizia. Una battaglia per chi sfida la mafia con la forza delle parole, come abbiamo ricordato a Roma nel dibattito all'interno della fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi, appunto. Per questo, alle loro storie di parole coraggiose, dedichiamo questa puntata particolare di A Ciascuno il Suo, partita da Rita Atria e dalla sua storia raccontata da una giornalista tedesca, Petra Reschi. Se tu vuoi trasmettere il messaggio quanto la mafia è pericolosa e che non può mai essere vinta, così uno fa anche un favore alla mafia e rende un favore alla propaganda mafiosa. Io trovo anche molto importante di dare una voce a quelli che hanno lottato contro la mafia, come Rita, lei ha dato la sua vita per questa lotta. Dunque, parlando come tedesca di questo, non sarei sicura di trovare altre tante persone coraggiose in Germania che lottano, che fanno la loro resistenza contro la mafia come lo fanno questi italiani. Allora io vorrei vedere anche questo, bisogna tener conto anche del grande coraggio degli italiani che lottano contro la mafia. La Germania è un paese che è molto attento e che segue con costanza anche le novità editoriali italiane che hanno a che fare con la mafia. In che modo se ne parla? In che modo la Germania sceglie di voler conoscere le mafie italiane? Prevale l'aspetto del folklore, prevale quello che la propaganda anche televisiva, l'immagine dei Sopranos, per dirla con il nome di una celebre fiction americana, ha consegnato all'immaginario collettivo, oppure la Germania ha cominciato anche ad interrogarsi sulla presenza anche sul proprio territorio di affari mafiosi di cui si è resa conto anche con fatti clamorosi e tragici come la strage di Duisburg? Purtroppo la Germania non si è interrogata proprio per nulla sulla presenza della mafia in Germania, dove è presente a proposito da 40 anni, perché come nel nord Italia la mafia è presente in Germania, la 'Ndrangheta, la Camorra e anche Cosa Nostra, e questo da 40 anni. E purtroppo i tedeschi e poi neanche Duisburg, nella strage di Duisburg, non ha cambiato neanche una virgola di questa percezione, che alla fine per i tedeschi si tratta di una strage tra italiani, diciamo. Quello che interessa alla fine è piuttosto la folklore facile da consumare, nel senso dei soprani. E ancora peggio, di recente un noto produttore della musica della mafia, perché anche questo esiste in Germania, la musica della mafia con grande successo viene ascoltato dai tedeschi, questo noto produttore della musica della mafia adesso ha pubblicato un libro con le presunte confessioni di un boss non pentito. Ai tedeschi si può anche vendere questa folklore, nel senso che possono vorrebbero credere che ci sono dei boss che si raccontano, e non sanno i tedeschi purtroppo che un boss non si racconta per nulla, lui racconta quello che vuole raccontare, cioè vuole diffondere la sua propaganda, e come giornalista uno deve soprattutto stare attento a non farsi utilizzare metodo di propaganda per un boss. Secondo te, Petra, la Germania per certi versi si trova in una situazione in cui fino a un po' di tempo fa è stata anche il nord Italia, cioè di ritenere la presenza nefasta e profonda delle mafie come qualcosa di altro da sé? Posso fare un esempio molto molto recente, perché c'è stata adesso una serie di omicidi di turchi in Germania, che viene adesso scoperto, uno scandalo che è venuto fuori pochi giorni fa, che questi omicidi sono stati commessi da estremisti di destra, allora con un motivo razzista. Ovviamente questi assassini non venivano mai presi in considerazione, perché il fatto in sé non veniva considerato come un omicidio di fondo razzista. La stessa cosa è paragonabile con la mafia: finché uno, neanche nell'opinione pubblica, non esiste un pericolo mafioso, dunque non ci sono neanche poliziotti che indagano, ci sono pochissimi purtroppo, che questo non è colpa dei poliziotti tedeschi, ma della percezione dell'opinione pubblica, anche della convinzione che non esiste la mafia in Germania, come sono convinti come neanche il razzismo di destra a un livello di assassini esiste. Dunque abbiamo un problema di percezione. Di percezione e di rimozione, come forse è stato per tanto tempo anche nel nord Italia, nonostante negli anni 80 c'erano stati inchieste, arresti importanti anche nel nord Italia che avevano confermato la presenza delle mafie, però fino ai mesi più recenti, diciamo, questo c'è stata una forma di oblio, si è ritenuto la presenza delle mafie, in particolar modo quella dell''Ndrangheta a Milano, come qualcosa di dimenticato, qualcosa di sconosciuto. Quanto ha a che fare però con le differenze anche tra l'Italia e un altro paese come la Germania, da cui tu provieni, ecco, ci sono anche delle differenze profonde da un punto di vista normativo. In Italia spesso ci sono delle polemiche anche su la possibilità, la libertà di raccontare o di svelare ricordare alcuni fatti, di indicare i nomi di personaggi coinvolti in alcune inchieste, però in realtà se si confronta la normativa esistente in Italia e quella tedesca, ad esempio, c'è molta più possibilità per chi scrive, sia giornalisti che scrittori in Italia, di fatti di mafia o di inchieste in generale, piuttosto che per chi lo fa in Germania. E tu stessa l'hai vissuto direttamente e personalmente con le vicende di un altro tuo libro che è Santa Mafia. Cos'è successo? È successo che alcune pagine del mio libro sono state annerite su richiesta dei protagonisti stessi del mio libro sulla mafia. Loro hanno ottenuto da Monaco di annerire queste pagine in cui si parlava di lui, ovviamente che non ho scritto delle cose che sapevo dal sentir dire, ma basato su documenti e rapporti della polizia tedesca, della magistratura tedesca e anche italiana. E questo è stato perché i giudici considerano che finché contro questi personaggi non ci sono sentenze definitive per associazione mafiosa. Anche in Italia c'è la presunzione di innocenza fino al terzo grado, però specificando che sì, si tratta soltanto di procedimenti che sono ancora in corso e che quindi non c'è ancora una sentenza definitiva, è possibile indicare quello che è scritto negli atti. In Germania no. Ovviamente non ho scritto che si tratti di mafiosi, dunque io mi sono espressa anche in maniera giuridicamente legale, cioè presunti eccetera eccetera. Il problema è più che altro il fatto, visto che l'associazione mafiosa, come viene definita in Italia con il 416 bis, non esiste in Germania. C'è associazione a delinquere di tipo mafioso che non è neanche vagamente paragonabile con quello in Italia. Non ci sono mai stati personaggi che sono stati condannati in Germania per associazione mafiosa. Dunque non si tratta solo di una presunzione di innocenza, ma qui si tratta di riportare un sospetto, non niente di più. Il significato è colpire uno per educare 100, cioè con l'esempio che loro hanno applicato su di me, sul mio libro, e non è stato l'unico. Dopo di seguito ci sono stati anche altri due libri che sono stati anneriti, anche quello di Forgione che è stato pubblicato in Germania. Dunque questo è per far capire agli altri giornalisti: non conviene fare nomi quando si parla della mafia in Germania. Finché il fenomeno può essere rimosso, taciuto, e dunque la mafia non esiste fino a quel momento. E questo nonostante appunto siano successi anche fatti eclatanti come appunto la strage di Duisburg, che comunque ha portato anche le autorità centrali, anche politiche, a dover fare i conti con la presenza delle mafie sul proprio territorio. Da allora è cambiato qualcosa oppure no? Non è cambiato nulla. Quando parlo con i lettori e tutti quanti i cittadini, sono sì interessati, però non hanno informazioni sulla mafia in Germania, non ci sono neanche articoli sulla mafia in Germania e manca l'informazione in maniera più totale. Io sono stata condannata, questo insegna agli altri giornalisti a non parlarne, dunque ci troviamo in un circolo vizioso. Quindi se in Italia ad esempio in alcune zone come la Calabria ci sono molti giornalisti che ricevono minacce per quello che scrivono, quindi che sono delle forme di intimidazioni perché non scrivano, in Germania paradossalmente a spingere i giornalisti a non scrivere è una normativa che rende praticamente impossibile scrivere di fatti che hanno a che fare con la mafia. Anche le redazioni stesse sono quelle che dicono non scrivere questo perché dopo abbiamo una causa, dobbiamo pagare l'avvocato eccetera eccetera. Dunque sono le redazioni stesse a spingere i giornalisti a non occuparsene, a parte il fatto che non viene meno se ne parla, meno viene considerato come un problema. È stata una cosa molto passeggera di parlare di Duisburg, della strage di Duisburg. Adesso è tutto il mare di nuovo calmo e nessuno non si preoccupa più di cosa è successo o dove sono finiti, perché mica questo era solo la punta dell'iceberg, i clan di San Luca che sono usciti per un attimo, questo è stato praticamente un incidente di percorso che di sicuro non si ripeterà mai più. Eppure proprio le inchieste sulla strage di Duisburg hanno anche svelato la presenza profonda, estesa e ramificata degli affari dei clan di 'Ndrangheta in Germania, da quelli di più basso livello a quelli immobiliari a quelli di alta finanza, quindi passando per operazioni finanziarie alte. Tutto questo è mai arrivato sulla cronaca tedesca oppure no? No. Io scritto un articolo, devo dire, però dopo questo gli altri, diciamo un po' così dalla parte dei miei colleghi, quello che non hanno visto, di cui non sanno parlare, perché ovviamente capisco anche che per un giornalista tedesco che non ha mai avuto a che fare con la mafia è difficile di riportare questi fatti. C'è un po' una ignoranza culturale, uno cerca di dissimulare e dire questo non è un problema. Ci sono i rapporti della polizia, c'è tutta anche una ricerca della parte anche della magistratura, dunque ci sono anche le notizie su questo, basta rendano noto, cioè le attività dell'Andrangheta, in particolare Moro, dei clan di San Luca e soprattutto i clan Pelle Romeo e Strangio Germania sono molto molto attivi. Solo Gratteri una volta ha menzionato 300 ristoranti che venivano gestiti dai clan di San Luca in Germania. Loro sono molto attivi anche non solo nella gastronomia, ma anche nell'immobiliare, poi anche nell'edilizia, come ovunque. Queste sono cose comunque sono note anche agli inquirenti tedeschi. Volendo si può anche pubblicare queste cose, volendo si possono anche fare delle ricerche su questo problema. Basta avere un po' una minima nozione di cosa è la mafia. Raccontare una storia di coraggio e di speranza, come quella di Rita Atria, è il nostro modo di fare a tutti voi i migliori auguri per tutto. Per riascoltarci, come sempre vi ricordo, radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Nell'archivio di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, ritrovate anche l'intervista a Pier Aiello e l'inchiesta sui testimoni di giustizia. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.